Milena Berlanda, direttrice cooperativa Punto di Incontro di Trento, cooperativa che si occupa di persone senza dimora. In questo anno i servizi di bassa soglia, quindi non solo noi, sono caratterizzati da due parole. Una è l'accelerazione, l'altra è il sacrificio. Quindi noi abbiamo dovuto accelerare per rispondere a bisogni emergenti sempre più forti, che sono cresciuti in maniera esponenziale a causa della pandemia, e nello stesso tempo abbiamo dovuto sacrificare quello che è l'aspetto principale del nostro operare, quindi la vicinanza. Già occuparsi di persone senza dimora significa lavorare su tempi abbastanza lunghi, di relazioni che cercano di costruire un rapporto di fiducia con persone che spesso hanno delle ferite profonde e che queste ferite li fanno diffidare dal rimettersi in gioco e dal mettersi in gioco in relazioni. La mascherina, le distanze e la difficoltà, il doversi rapportare insomma con questo nuovo modo di relazione a distanza, chiaramente ha complicato quello che era già una costruzione lenta di relazioni. Il fatto di essere stati aperti e di aver incrementato i servizi durante la pandemia e durante il lockdown già da marzo-aprile insomma dell'anno scorso ha rinforzato un rapporto con l'utenza che ci ha riconosciuto gli sforzi fatti, quindi che non ha dato per scontato il fatto che noi ci fossimo e che ha riconosciuto in questo un vederli e un non dimenticare che esistono anche in un momento difficile dove tutti erano portati alla salvaguardia, alla tutela di se stessi. Il credere in questo lavoro ha sicuramente aiutato gli operatori a sopravvivere a questo momento. Quello che ha unito tutti è la paura, perché comunque fin da subito ogni azione era accompagnata da una paura comunque di tutela di se stessi, dei familiari a casa, eccetera. La dimostrazione della pandemia è stata che prendersi cura degli ultimi è prendersi cura della comunità. Con il Covid è diventato più reale ed evidente un principio che noi portiamo avanti da sempre.